Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci insieme pronti per affrontare una nuova giornata e oggi torna a trovarci un caro amico, il professor Vaira, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Nicoletta e ben ritrovati dopo questo maledetto Covid. Professore, sa che il piacere di sentirle grande, ma già che è qui con noi ne approfittiamo perché c'è sempre qualche problemino da risolvere, da prevenire. Poi i consigli dei grandi medici fanno sempre comodo e oggi abbiamo bisogno che lei ci aiuti a convincere la nostra pancia a comportarsi bene, a non lamentarsi per un non nulla, a farci fare anche bella figura, perché lei sa bene che proprio quando iniziamo ad andare al mare o mettere gli abiti un pochino più leggeri, la nostra pancia non è che proprio dà il meglio di sé e spesso infatti si gonfia, poi diventa dolente. Insomma, professore, sembra che l'estate in qualche modo la mette in difficoltà. Probabilmente il cambio di alimentazione, probabilmente il cambio di temperatura, ma da che cosa partiamo, professor Vaira? Dalla pancia, che è la seconda cervello il nostro secondo cervello. La pancia è molto molto molto sensibile, specialmente quelle delle donne, e quindi subisce di più le alterazioni atmosferiche, cioè i cambi di temperatura, ed ecco perché purtroppo si gonfia, fa i capricci, a volte va troppo, a volte non va, e questo ci altera la qualità di vita, come giustamente ha detto lei. Professore, iniziamo a mettere così sul piatto quelle che sono le credenze, i luoghi comuni. Probabilmente c'è anche tanto di vero in quello che tra noi o ci diciamo, ci raccontiamo, o quello che un po' suggerisce la saggezza popolare. Molte persone, ad esempio, pensano che a gonfiare la pancia sia l'acqua. In estate si beve di più ed ecco che la pancia diventa più gonfia. È vero? Vero e falso? È corretto attribuire ad una maggiore introduzione di liquidi il gonfiore della pancia? Falsissimo, l'acqua va sempre bene. Il punto è che noi non abbiamo tempo e quindi vogliamo ingurgitare l'acqua. Quindi se noi ingurgitiamo un litro di acqua in 2 ore, per forza la pancia si gonfia, perché deve smaltirla e deve amalgamarla. Quindi l'acqua ci fa sempre bene, il problema è spalmarla nell'arco della giornata. Quindi la pancia è il rimedio più è il rimedio più efficace per sgonfiare la pancia. Professore, in diverse occasioni lei ci ha invitato a bere nel modo corretto. Vogliamo, ci aiuta a ricordare il modo giusto per idratarci senza incorrere, come lei anticipava, in quell'inconveniente di bere tutta l'acqua insieme, o perché se arriviamo molto assetati e poi la paghiamo anche con una pancia che può avere qualche problema? Bisogna bere a piccoli sorsini, questo è il segreto di Pulcinella. In realtà la metafora è esattamente la flebo che noi mettiamo in ospedale. Quando una povera signora arriva a pronto soccorso a Milano o al Sant'Orsola di Bologna, la primissima cosa che facciamo è mettiamo una flebo. In questa flebo mettiamo un liquido magico che fa risuscitare tutti i nostri pazienti. Qual è questo liquido magico? È l'acqua distillata. Prima di mettere qualunque farmaco, adesso sto parlando seriamente, noi mettiamo acqua e la mettiamo in misura realmente graduale, cioè la famosa goccina dopo la goccina, in modo che quest'acqua vada all'interno della cellula. Mi spiego meglio, il famoso bicchiere d'acqua per forza ci fa fare plin plin, perché il 90% del bicchiere d'acqua va in vescica e quindi lo tiriamo via con la famosa plin plin. In realtà l'acqua ci serve all'interno della cellula, questo è il motivo per cui dobbiamo berla a piccolissimi sorsini. Professore, frutta, zuccherina in questa stagione dell'anno, buonissima, può essere responsabile del gonfiore della nostra pancia? Ma no. Molti dicono: mi piacciono le pesche, mi piacciono le albicocche, mi faccio una bella insalatona di frutta, così tengo anche un pochino indietro le calorie, ma poi la pancia borbotta, la sento gonfia. No, ma non la frutta va benissimo, come al solito, Nicoletta. Ci vuole buon senso. È ovvio che se io metto un insalatone in cui ci metto mezzo chilo di ciliegie, mezzo chilo di albicocca o di Beh, pesche, certo, è la qualcosa quantità. succederà. E infatti il buon senso, quindi se in realtà faccio una macedonia normale, quindi una coppa di normale di frutta, va assolutamente bene. È ovvio che se però io minuto solo di frutta nell'arco della giornata, anche il povero pancino dice aiuto, me ne sta arrivando troppo da smaltire. I consigli dei politologi, liste di attese infinite dagli urologi, la voce del presidente alla radio. E questa crisi che crea panico da stadio, anche le madri sono molto preoccupate, usano internet per essere aggiornate, e anche l'Italia non è più quella di una volta, quando Mina cantava tu le mille bolle blu. Che stress, che stress, avrei voglia di uscire da questa vita allucinante. Professore, lo stress può essere responsabile, abbiamo detto che la pancia è il nostro secondo cervello, può essere responsabile di tutti questi disagi, malesseri, SOS che la pancia, specie in questo periodo dell'anno, ci lancia? La risposta è sì, però non diamo sempre tutta la colpa allo stress. Diamo la colpa alle nostre cattive abitudini alimentari, innanzitutto al fatto che per l'amor di Dio in questi 3 mesi non ci siamo potuti muovere, ma adesso che finalmente ci possiamo muovere, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, andiamo a nuotare, cioè facciamo dell'attività fisica. Per contro lo stress non ci sono farmaci, c'è l'attività fisica. Professore, arriviamo ai consigli per aiutare la nostra pancia ad affrontare questo periodo che, per le ragioni che abbiamo detto, quindi il cambio di dieta, il cambio delle temperature, anche una stanchezza e uno stress che in questo periodo dell'anno si accumulano e si fanno sentire. Può in qualche modo vivere questo periodo con un po' di difficoltà. Abbiamo detto sì all'acqua, non, l'acqua non produce gonfiore alla pancia, anche se la bevo durante i pasti? Assolutamente no, anche se l'acqua che funziona è quella che si beve a stomaco vuoto, ma per l'amor di Dio l'acqua durante i pasti va sempre bene. Ci sono degli alimenti che vanno inseriti nella nostra dieta, che piacciono alla nostra pancia. Possiamo aiutare i nostri ospiti, i nostri coinquilini, e quindi parliamo del microbiota, ad affrontare l'estate in piena forma? Assolutamente sì, per esempio quello che lei menzionava, i nostri probiotici sono in assoluti i nostri alleati, però ribadisco, è estate, più pesce mangiamo più stiamo bene, quindi pesce e frutta va benissimo, per l'amor di Dio va bene anche la carne, per l'amor di Dio va bene anche la pasta, per l'amor di Dio va bene anche il pane, ma il pesce in assoluto è l'alimento più nutritivo che abbiamo. Sicuramente il nostro pancino si avvale e ci ringrazia se utilizziamo un po' di probiotici in questo periodo particolare. Professore, come sceglierli? Allora, li scegliamo innanzitutto possibilmente dei ceppi particolari, tipo i bifidobatteri in assoluto, che sono quelli che in assoluto ci aiutano di più. Quindi andiamo a identificare i probiotici che hanno i bifidobatteri, che in assoluto sono quelli con cui noi nasciamo, sono i nostri alleati storici da quando abbiamo pochi giorni, non mesi, pochi giorni di vita, e sono quelli che in assoluto ci aiutano di più nella nostra, tra virgolette, digestione. Si assumono al mattino, Si durante la assumono una giornata, a sola volta digiuno. al mattino prima di colazione, quindi come al solito il buon senso sempre ci fa da padrone, non è il caso di assumere 2 o 3 volte al giorno, a meno che uno non abbia una sindrome di diarroica, ma in situazione di normalità una sola volta al giorno prima di colazione per non più di 4 settimane, perché anche lì non è che possiamo prendere probiotici per tutta la vita o per tutto l'anno, di solito si fanno dei cicli, cambi di stagione, quindi questo è il momento adatto, ci sgonfia il pancino, ci riassesta l'intestino, ci mette in equilibrio i batteri buoni e i batteri cattivi e la cosa fondamentale non ci fa assumere farmaci, che noi dobbiamo sempre stare alla larga dei farmaci. Per l'amor di Dio, quando ci vuole lo pigliamo, ma meno farmaci pigliamo, ovviamente meglio stiamo. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, torni prestissimo a trovarci. Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori. Ringrazio Carmelo Lauricella che è in regia alla parte tecnica, Miriam Lucchetti in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Come ogni giorno vi do appuntamento a mezzogiorno dopo il GR delle 12 per sentire le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Intanto buonissima giornata, dai che abbiamo iniziato bene, continuiamo così.